se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo, niente di più. I heard you on the wireless back in 52. Lying awake, intent on tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh, oh. They took the credit for your second symphony. Rewritten by machine and new technology. And now I understand the problems you can see. Oh, oh, oh. I met your children. Why did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. So bene che il fenomeno grillino è venuto fuori anche perché gran parte della politica tradizionale è costituita anch'essa da mezze pippe, da pippe intere, per la verità, da gente che quando parla ti fa venire una crisi depressiva. And you remember the jingles used to go. You were the first one. Diciamo no alle Olimpiadi, però ci aspettiamo che i soldi ce li diano comunque. Allora hai la sensazione che la signora sia sindaca a sua insaputa, cioè nessuno le ha spiegato che i soldi delle Olimpiadi, il Comitato Olimpico Internazionale, come si chiama, li dà se si fanno le Olimpiadi, non è che li dà a prescindere. Sono un uomo che mantiene una sua sensibilità adolescenziale nonostante le immagini. E che vi devo dire, vedere quella immagine sul tetto di Roma, sulle tegole, mi ha riportato a leopardi, a vaghe stelle dell'orsa. Io non credevo a tornare ancora per uso a contemplarvi. Come si fanno a commuoversi? E niente, effettivamente un corso di comunicazione De Luca potrebbe tenerlo, ai politici, come li chiama lui, le mezze pippe o pippe intere. Video killed the radio star. Video killed the radio star. In my mind and in my car, we can't rewind, we've gone too far. Pictures came and broke your heart. Put the blame on video. Allora signori, siamo qui a 24 mattino, sono le 6:33 minuti. Come vi siete svegliati? Bene? Saluto Simone dal Basso Vicentino, saluto Marco da Monteveglio che mi chiede: ma oggi c'è la nostra cara e bravissima Paola? Ma chi lo sa? Mistero. Basta con la solita radio. Noi la Saluzzi la vogliamo vivere più social. Ecco che con la nuova stagione inizia A Casa di Paola. Eh sì, andremo tutti quanti a casa di Paola e tutti staremo quanti insieme a lei tutto il giorno. Tutto il giorno. Mentre si fa da mangiare, mentre si lava. Ehi, birichino, non sbirciare. Mentre gioca col gattino. Mentre parla con due tizi di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Sì, sì. E alla sera possiamo rimboccarle le copertine. Oh. Buonanotte, Paolina. Con la nuova stagione cambia il tuo modo di vivere la tua rossa preferita. A casa di Paola, tutto il giorno, tutti i giorni. Per sempre. È meraviglioso. Quest'ultimo per sempre è un po' inquietante, devo dire. Ha rovinato ogni nel finale. Ogni mercoledì, caro Alino, buongiorno a tutti innanzitutto. Io sì, ti devo un grazie, perché sì, è proprio un modo di iniziare. Adesso con guarda, un buon umore. Te la mando, la metti come suoneria nel cellulare. Assolutamente, è un po' lunga, ti pregherei di farla suonare tutta ogni volta. Lascio suonare. Buongiorno. Buongiorno, cara Paola, ti devo dare una notizia clamorosa. Devi comprare subito un libro perché è uscito. Oggi ne parla Libero, te lo dico subito. È un libro per Caterina, si chiama La religione gatta. cattolica. Oggi è meraviglioso. C'è lo zampino di Vittorio Feltri, però. Sì, questo, ma è chiaro, ma è ovvio. Il noto cattolico. Ovvio. Ecco, è ovvio. La religione cattolica, assolutamente. Solo un matto come Feltri può pubblicizzare. Assolutamente. La religione e qui davanti cattolica. A me la mia religione cattolica, Caterina, che sta facendo le fusa. Chissà se ve le posso far sentire. Sentiamo un po' se si sentono. Un trattore. Sì, effettivamente sì. Il trattorino, sì. Il trattorino si è messo in moto, va bene. Religione cattolica, pronti, via. Eccoci qua. Allora, insieme a Paola Saluzzi, eccolo qua il nostro super mega dir, il nostro Luca Dini. Buongiorno. Come va, tutto bene? Sì, stavo pensando che diciamo la regione cattolica ha fatto molti meno danni delle altre. Ah, subito, tac, no, la tocca piano. Ma proprio il giorno in cui il Papa è andato da Amatrice, dai. Bello. Non puoi. Ah, ma non sì, ti... sì, no, va bene, certo. Però io vorrei attenzione, mettere, visto che vi ho dato questo momento alle 6:36 minuti, apriamo il Parlamento, perché è un momento grave. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma forza, gente, attenzione, perché è stato lasciato o rilasciato dal figlio di Casaleggio, da Davide Casaleggio, l'ultimo video. Che succede? Che succede? È il caffè, no, questo? No, stavo sistemando una sedia. Ah, stavi sistemando una sedia? No, ma prego, fai pure rassetta a casa. Ma no, dovete arrivare in così tanti a casa che ho preparato la colazione, i biscotti, ecco. Il tè, già la cioccolata. Mi sembra giusto. Perché di questi tempi comincia a fare freschino. Volevo darvi un messaggio di ottimismo. Ce l'ha lasciato Gianroberto Casaleggio poco prima di lasciarci, e ieri il figlio ha diffuso questo sorta di video testamento di Gianroberto Casaleggio. Tu, Luca Dini, ne hai sentito parlare? Sei un po' inquietato? Sai di cosa si tratta? Non lo sai. Oggi ne parlano i giornali. Si chiama Singularity. Attenzione, parla dell'arrivo di singolarità, un qualcosa che nel 2040 potrebbe schiacciarci tutti come insetti. Attenzione, sentite qui. Web, IoT, Big Data e IA rappresentano sistema nervoso, sensi, memoria e cervello di un super essere che in futuro controllerà il pianeta e sfuggirà alla comprensione umana. Il momento in cui questo succederà sarà detto Singularity. Nel 2015 Stephen Hawking ha detto alla BBC: lo sviluppo dell'intelligenza artificiale può condurre alla fine della razza umana. La fine dell'umanità, la Singularity, potrebbe avvenire a partire già dagli anni 40 di questo secolo. No, anni 40. Ma io adesso che gli dico? Ricordati che devi morire. Sì, sì. Come? Ricordati che devi morire. Questo non fa parte del video. Ricordati che devi morire. Ma adesso io, adesso... No, non me la segni, bro. Scusate, io adesso che... Oggi che gli dico a Mattia D'Angelica? Cioè io nel 2040, vabbè, avrò 70 anni, la mia vita l'avrò anche abbastanza fatta. Luca Dini sarà anche un po' più vecchio. Insomma, ma... Caro Luca, cosa devo dire io adesso ai miei figli che arriva Singularity? Io rispondo nello stesso modo del grande Troisi, ma me lo segno. Ma me lo segno. No, ma perché... me lo segno e devo dire, intanto ringrazio due veri signori che hanno escluso, non so, cari radioascoltatori, se notate che sono stata esclusa io dal non conto ho detto niente. Degli anni 40. Io non ho detto nulla, è meraviglioso, ma io apprezzo tu molto avrai tutto 55 anni negli anni 40, insomma. 56, una cosa del genere, sì, no, quanti anni avrò di meno nel 2040? 4 avrò 80 anni. 80 anni? Quindi sarò una simpatica signora di 80 anni quasi. Una splendida età, insomma. Una meravigliosa età. E insomma, Stanley Kubrick l'aveva immaginata ancora prima questa cosa, sì, no? Ma nei film però, faceva i film, sì. Non è che... Lo so, però faceva i film, ma erano, come dire, profetici, direbbe qualcuno. Speriamo di no, che dobbiamo dire? Speriamo di no. Mo me lo segno. Singularity. Ma io devo ragionarci sopra, sempre... tuttavia. Sì, no. Dimmi, Luca. Penso sempre che le previsioni catastrofiche siano di chi non ha più molto davanti, ecco. Ah, dici? Ma no, no, quindi, non lo so, diciamo, ma può essere, sì. Cioè, ma è sempre stato così, prima com'era Gaia, la Terra diventerà tutto, ma adesso Singularity, poi l'ha detto Stephen Hawking, grande scienziato, quindi... per carità, arriverà la super intelligenza. Non è che voglia dire che può dire tutto, cioè, dice, anche se è un grande scienziato, può anche dire qualche fregnaccia. Ecco, può anche dire una fregnaccia. Ma adesso, ma direttore, ma cosa dici? Ma sì, ma almeno vogliamo dare un segnale di ottimismo. Vogliamo sperare che sia una fregnaccia. Almeno questo, Luca, possiamo dire. Vogliamo sperare che sia una fregnaccia. Se no, ragazzi, altro che Fertility Day, qua la gente come non fa più un figlio. Ragazzi miei adorati, ma vi ricordate le giornate fine del mondo? Qualche anno fa c'è stata per il calendario Maya, quella roba lì, la giornata della fine del mondo, che la gente è andata su in collina. Ha lasciato casa, è andata su dai parenti in campagna. Ci sono state persone che si sono messe così. Io avevo un vicino di casa, cioè un signore che abitava pochi palazzi dal mio, che teneva sempre un gommone in giardino, e mi domandavo perché lui sosteneva che presto sarebbe arrivata la fine del mondo e il diluvio. Sì. E quindi... e veramente questo teneva il gommone pronto. Dicevo, scusi, ma in terrazzo? Ma lei col gommone che... No, in giardino, teneva il gommone pronto in giardino. Ma è sempre lì o l'hanno trasferito in qualche luogo un po' più protetto ultimamente? No. Adesso non l'hanno portato via in una camicia dura. No, adesso poverino non c'è più. Però il diluvio deve ancora arrivare, il gommone neanche. È andato. Ci ha lasciato un gommone. Abbiano deciso di soprassedere. No, ma va bene che tutti abbiano le proprie visioni del futuro, per carità, ed è giusto così. Insomma, almeno per lasciarvi con un po' di ottimismo, io direi che invece è meglio di no. Oh, signori, sui giornali è tutto un controllo di conti decimali, il DEF, i conti, Padoan dice che ce la faremo, il Fondo Monetario taglia le stime di crescita, una roba abbastanza barbosa alle 6:42 del mattino, devo dire. Allora io voglio far sentire Beppe Grillo, che magari un po' più di allegria ce la dà. Comunque Beppe Grillo ormai è fisso a Roma. Paola, stai attenta, perché potresti anche lanciargli un invito a questo punto in trasmissione, magari poi gestiscitelo te, ovviamente. Però Beppe Grillo, eccolo qua. Un saluto e un ringraziamento ai Netturbini, perché veramente più pulita Roma, ma veramente grazie a loro che sono la forza più importante. Quindi la Muraro non è un problema. Io mi metto davanti agli incontri, Grillo. Cioè, capite, ringrazia chi? I Netturbini, che è un modo, come dire, secondo alcuni l'assessore invece non conta più di tanto, no? Com'è lì il clima a Roma, cara Paoletta, in quel clima politico? Aiuto. Nel senso, no, è un clima acceso. Il dibattito è molto attivo, vediamo di dire un po' in una serie di luoghi comuni. Il dibattito è acceso e sì, ovviamente è una città che si aspetta di essere governata, no? Come se fosse una persona, la città stessa. Anche perché sennò, e tanto c'è da fare sulla pulizia, sul buon governo della città, tantissimo c'è da fare. Sì, devo dire che c'è una grande attesa. Per esempio, visto che spesso si mettono in confronto la Raggi e l'Appendino, no? Due sindaci 5 Stelle che sono stati eletti, e l'Appendino fa questa iniziativa. Questa, secondo me, è molto meritevole, chissà se funzionerà. Senti un po', Luca, ha deciso che darà 300 euro alle famiglie che accoglieranno in casa un senza tetto per l'inverno che sta arrivando. Si chiama accoglienza diffusa. Non lo so se funzionerà, però che ne pensi di questa idea di coinvolgere la popolazione, oppure dovrebbe pensarci il comune con strutture e no, basta? È una bellissima idea. Qualcuno dirà che è demagogia, invece io credo che sia, se anche lo facesse una famiglia sola, è un bel messaggio di dire che comunque lasciare fuori qualcuno a morire di freddo non è un bel segno di civiltà. No, non è un bel segno di civiltà. Darà 300 euro al mese alle famiglie che accoglieranno un senza tetto in questo inverno. Non lo so, Paola, è chiaro che quando ci sono questi segnali sembra come dire, beh, è un, da una parte no, il segno che un amministratore... L'accoglienza diffusa esiste e fa benissimo l'Appendino ad applicarla, perché è giusta, perché ti dà, forse ti fa capire, senza il forse, ti fa capire quale sia il problema. Mm-hmm. Oltre al fatto che, umanamente parlando, ti può permettere degli incontri che non vanno visti solo in chiave dickensiana prenatalizia o intorno al Natale. Sì. E forse ti può permettere di capire più cose di quante tu non ne possa trovare dentro un libro, addirittura ancora dentro un libro. È chiaro che sarà una cosa volontaria, ma voglio dire, tra l'altro ripagata appunto con 300 euro. E secondo me appunto non deve essere l'atteggiamento di pensare a dire ma così vuol dire che un'amministrazione non è in grado di affrontare la questione. No, è un modo per coinvolgere la popolazione e cercare... Poi no, al contrario, può essere forse per l'amministrazione anche un modo più sensato di occuparsi del problema, forse anche meno costoso, in città dove comunque di spazio nella casa, di case sfitte. Il problema è capire quanti lo faranno. Il problema Luca è capire quanti lo faranno. Certo, lo faranno poi realmente, nel senso che accogliere un senza tetto, inizia, allora lì devi capire come, dove, ricordiamo che sono persone così straordinarie che molto spesso sono persone che hanno deciso di non accettare più un tetto sopra la testa, sì, di non essere seguite e tutelate come sempre per una forma propria, personale di rivoluzione della stessa vita, insomma, quindi per questo dico sarà un'avventura complessa. No, ma sarà interessante infatti vedere quanti la faranno. Allora andiamo al traffico, che poi avremo una nostra ascoltatrice all'estero, poi ho questa notizia. Cara Paola, ti annuncio solo che tu sai lo Sparta-Praga, cos'è? Sparta-Praga. Squadra di calcio. La squadra di calcio, brava, c'è una sorpresina, tra poco ti racconto una cosa sullo Sparta-Praga, tra poco. A Milan, io voglio sentire il traffico! È ora di finirla di chiamare quello della Sicilia governo, perché le regioni autonome non dovrebbero più esistere, non hanno più ragione di esistere, sono anacronistiche e sono un abominio. Alessandro, buongiorno. A proposito di gender, ma Nicky Vendola fa il papà o la mamma? Uè Milan, buongiorno. Volevo dire a Renzi, molla sta poltrona prima che ci metti... Superata, fai vedere, molla la poltrona! Pa pa pa pa brand, pa pa pa pa pa brand, pa pa pa pa pa brand, pa pa pa pa pa brand, pa pa pa pa pa brand. You got me rockin' and rollin', rockin' and reelin' my brand. C'è la cristofobia, diciamo così, delle lingue blasfeme che sentiamo ogni giorno, molte volte proprio anche attraverso le varie radio, dove appunto ognuno sputa fuori quello che ha dentro, cioè veleno della serpe, infernale, insomma. Non credo che il padre Livio Fanzaga si riferisca per esempio qui ai nostri mercoledì con Luca Dini e Paola Saluzzi, però insomma non lo sappiamo. No, tu lo escludi. Ma cari amici, io voglio salutare una nostra ascoltatrice che ci segue dall'estero. Ebbene sì, una nostra ascoltatrice come tanti che ci devono scrivere via mail a 24mattino@radio24.it. Oggi guardate dove andiamo, andiamo a Houston. Ma è vero? Daniela, buongiorno, buonanotte, che te devo dire? Buonasera. Buongiorno, in realtà qua è mezzanotte, però mezzanotte. So che da voi è... State appena cominciando, quindi buongiorno. Ecco, sì, vabbè, beata te che vai a dormire. Daniela, esatto. Che ci fai a Houston? Diciamo che io sono negli Stati Uniti da parecchio, sono negli Stati Uniti da 17 anni, quindi è parecchio tempo. Houston, perché in realtà io sono sposata con un texano, quindi Houston era fantastico, insomma, una scelta facile, ecco. Fantastico, cioè, ma questa immagine del texano, il cowboy, che Paola, proprio Paola, poi dire tutta la presa al lazzo, queste cose, dai, facciamo questi luoghi comuni. Esatto, questo è quello che fa parte della mia vita. Alla John Wayne, come si chiama? John Wayne? No, no, come si John chiama? Wayne. Quasi. No, ma tra l'altro, io volevo approfittare di una cosa, perché adesso so che Paola è lì, quindi io non so se voi vi ricordate, ma qualche tempo fa, qualche giorno fa, in realtà mio fratello è intervenuto dall'Austria in questa stessa trasmissione. Settimana scorsa, è vero, è vero. La settimana scorsa, esattamente, da Reutte in Austria. E niente, io volevo tranquillizzare la signora Paola e tutti gli italiani facendovi sapere che in effetti a Reutte ci sono un sacco di mucche e che il latte è buonissimo. Ecco, è buonissimo. Ecco. Ma cosa ne sai, Paola? Cosa ne sai tu? Ma lo so perché sono stati in Austria il latte austriaco è meravigliosamente buono. Ma proprio lì in particolare. Io ringrazio per la tranquillità. Devo dire, una generazione di mucche, perché tra le mucche in Austria e le mucche in Texas... È praticamente l'unica cosa che io e mio fratello abbiamo in comune ancora. Ma infatti non è che lavorate nel mondo delle mucche, no? A questo punto No. Ma invece io volevo sapere, ma quanti repubblicani pro Trump ci sono in Texas? Appunto, lì in Texas decisamente fanno più paura delle mucche. Sicuramente, ma diciamo che in Texas, come voi sapete, la maggioranza dei texani è sicuramente repubblicana, però diciamo che queste elezioni sono un po' particolari, sono un po' surreali, sembra di essere, scusate l'espressione, ma sembra un po' di essere sul set di Scemo e più Scemo. Nessuno vota per Trump perché è un sostenitore di Trump, tutti quelli che votano per Trump sono perché non sono per la Clinton e viceversa. Stiamo cercando di scegliere tra il minore dei mali. Questo ecco, si è detto un po'. Paola Saluzzi dice brava, scegli il minore di queste mali. Ecco, mi raccomando. Daniela, noi ti dobbiamo mandare un grosso abbraccio, perché io qui voglio dire due cose in conclusione. Grazie Daniela, da Houston ci segue, vi rendete con caro Lucadini, tieni. Tra l'altro anche se te sei tranquillizzato, ci sono le mucche, avevi detto che c'erano le mucche. Io ero sicuro. È la sorella che ci ha scritto da Houston. Per dire, è vero. Allora, io ho qui Jude Law che mi guarda sulla prima di Vanity Fair. Jude Law, capito? Cara Paola, il Papa. The Young Pope, esatto. Colui che ha interpretato il Papa di Sorrentino, Jude Law. Ma volevo dirvi questa cosa, lo Sparta Praga, perché sennò ti lascio con il dubbio. Sì, è vero. Nello Sparta Praga c'è un portiere... e c'è anche un difensore che hanno protestato all'ultima partita, hanno detto al guardaline: tu stai bene solo in cucina, perché il guardaline era un guardaline, cara Paola, donna. Le donne stanno bene solo in cucina. Sai come li hanno puniti allo Sparta Praga? Li hanno obbligati ad allenarsi un mese con la squadra femminile di calcio. Hanno fatto bene. Hanno fatto bene, speriamo che le donne della squadra femminile picchiassero come Fabri, li corchino anche di mazzate. No, ma per allenarli, per tenerli interventi sulle tibie, per dire. Vedi a parte un po'. Che mi permetto di dire, cito una splendida giornalista del Corriere della Sera, Angela Frenda, che sta scrivendo dei libri di cucina, uno più bello dell'altro, l'ultimo è La cucina felice, che è un complimento che le donne stiano bene in cucina. Ma per questi giocatori non lo era molto. Sia chiaro, perché no, questo per evitare che sembri un dileggio dire stai bene solo in cucina. In cucina si sta benissimo. Sì, ma questo era dovete stare solo in cucina. Se lo viene a dire così, ecco, allora io ti metto sui campi di calcio delle calciatrici che spero siano tutte sorelle di Martin Castro Giovanni e, come dire... E ti corchino le tibie. Insegnino a giocare e a vivere, magari. Va bene, dai, vi lascio con questa notizia. Vi ricordo Paola Saluzzi su Sky alle 10 del mattino. E Luca Dini col numero di Vanity Fair in edicola. C'è Jude Law in copertina e tanti altri servizi, ovviamente. Vi ringrazio, vi abbraccio e vi ci sentiamo mercoledì prossimo. Qui Houston, potete ripetere. Houston, abbiamo un problema. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog. Quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Brucio.